mi sul lumbar, mi sul lumbar, e al lumbar che gireni bal. Onestamente, riguardando quello che ho fatto tutto quello che dovevo fare e anche di più. Mi sul lumbar, mi sul lumbar, e al lumbar che gireni bal. Oggi Roberto Formigoni presenta la nuova giunta del Pirellone. L'appuntamento è nella sala stampa di San Vittore. Gira de qui e gira de là, in gir come un pirla Laura, Laura, Laura, Laura, tutte di, che il pistola su sempre lì.